cartoni che solleverai. E se il volto mio ti fa paura, sono certo che sorriderai. Anche al buio cercami, non importa dove. Tu trovami, non importa come. Se ci imbarcheremo, non mi chiedo quando, tu chi sei. Ma per te ritorno clandestino, non so il viso e che colore poi. E se anche stavolta negheremo, dal mio cuore non sprofonderai. Riconoscerò lo sguardo, non saprò il tuo nome. Ma insieme in fondo dormiremo altrove. Seppure son convinto qui nella mia testa che una sola vita al mondo è già abbastanza, io non posso fare a meno di questa tempesta per riempire il mio languore di speranza. Dunque se è vero ci vediamo al fiume, sia io sparviero, tu cigno senza piume. Chiunque può comunque sia, ci vuol pazienza a ricominciare il viaggio di un'intera esistenza. Noi che mai ci siamo mossi dalla stanza, ma se è deciso, ipocrisia e incoscienza, mi trovi pronto ai nastri di partenza. Se rinasceremo, ammesso che saremo noi o chissà, tutti i nostri errori rifaremo, anche quelli di una vita fa. Sempre illusi che mai sbaglieremo, che se caduto tu mi rialzerai. Io ti allungherò il mio braccio, se vorrai saltare frontiera o muro che stanno per sparare. Fatti coraggio, perché non c'è giustizia. Per l'impegno un premio alla pigrizia. Facciamo finta che siamo via in vacanza, con sul cartello scusate per l'assenza.